Giuseppe Fava, giornalista, scrittore catanese, autore di romanzi e di opere per il teatro. Fava, per i suoi racconti a che cosa si è ispirato? Alle mie esperienze giornalistiche. Io ti chiedo scusa, ma sono esterrefatto dinanzi alle dichiarazioni del regista svizzero. Cioè, mi rendo conto che c'è una enorme confusione che si fa sul problema della mafia. Questo signore ha avuto a che fare con quelli che dalle nostre parti, come Sciascia giustamente dice, sono scastapagliare. C'è delinquenti da tre soldi che esistono su tutta la faccia della terra. I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. Una organizzazione alla quale riesce a manovrare 100.000 miliardi l'anno, e sono più se non erro del bilancio di un anno dello Stato italiano, in condizione di armare degli eserciti, in condizione di possedere delle flotte, di avere un'aviazione propria. Difatti, in effetti sta accadendo che la mafia si stia oramai pressoché impadronita, almeno nel Medio Oriente, del commercio delle armi, del mercato delle armi. Ecco, gli americani contano in questo, però neanche loro avrebbero cittadinanza in Italia come mafiosi se non ci fosse il potere politico finanziario che consente loro di esistere, perché questi, diciamo che di questi 100.000 miliardi un terzo, un quinto resta in Italia e bisogna pure impiegarlo in qualche modo, bisogna riciclarlo, ripulirlo, reinvestirlo. E allora ecco le banche nuove, questo pullulare, questo proliferare di banche nuove dovunque. E se vorrò per riciclare, il generale della Chiesa l'avevo capito, questa era stata la sua grande intuizione, quello che lo portò alla morte, che era dentro le banche che bisognava frugare, perché lì c'erano decine di migliaia di miliardi insanguinati che venivano immessi dentro le banche e ne fuoriuscivano per andare verso opere pubbliche. Io ritengo che molte chiese siano state costruite con appalti avuti da denari mafiosi insanguinati. Cosa vuol dire essere protetti, secondo il linguaggio dei mafiosi? Essere protetti significa poter vivere dentro questa società. Io ho letto una intervista esemplare nei giorni scorsi a quel signore di Torino che ha corrotto tutto l'ambiente politico torinese e diceva una cosa che è fondamentale, cioè è una legge mafiosa che è stata esportata, è venuta su dalla Sicilia e fa parte ormai della cultura nazionale. Non si fa niente in Italia se non c'è l'assenso del politico e se il politico non è pagato. Ecco, noi viviamo in questo tipo di società e in questo tipo di società la protezione è indispensabile se qualcuno non vuol condurre la vita da lupo solitario, che può essere anche una scelta e può essere anche affascinante, essere soli nella vita e non avere né aderenze né protezione da alcuna parte, orgogliosamente soli fino all'ultimo. Questa può essere una scelta, ma 60 milioni di italiani non potranno fare. Non hanno questa vocazione alla solitudine. Adesso sono un signore a mezz'età. Sto cominciando a invecchiare, ma senza fretta. E fra un po' avrò gli anni che aveva mio padre quando morì. Per me quel giorno sarà un giorno di festa, come tornare al mondo. Mondato dai ricordi e dai rimpianti. Sarà una porta che si chiude sul passato per sempre. Un figlio, che l'età del padre, non è più un figlio, è un uomo. Nel mio caso è anche un collezionista di memorie, anche se ho smesso di collezionare memorie. Io ai ricordi non devo più nulla, né dolore, né rimorso, niente. Sono cose accadute nel passato, mentre io sono qui in un'altra vita. Sono io adesso il padre. È una figlia che agli anni che avevo io, quando questa storia cominciò. Il mio primo ricordo è proprio lei, questa bambina, un mese di vita, mia figlia. Cristina era in braccio a mio padre, era un mattino di luce sabbiosa. A mio padre mancavano 5 giorni di vita, ma questo non lo sapevamo né io né lui. Ricordo il gesto suo mentre raccoglieva Cristina da terra, se la teneva appoggiata al petto, se la guardava. E io intanto gli parlavo. le rinfacciavo la vita che faceva, l'ingenuità, quel nostro giornale fatto di spaghi e fatiche, le dicevo, guardati papà, guardati, stai invecchiando. E ancora ti tiri dietro le tue filastrocche, i sogni ostinati di quelli che vogliono raddrizzare l'ancora col ginocchio. Ma guardati, padre mio, che la vita è complicata. Ma dove credi che ci porterà questo giornale che ti sei inventato? Non abbiamo più un soldo, più una lira. Non avevamo nemmeno più amici. Solo a cambiarli per la tipografia, creditori che ci mangiavano la faccia tutti i giorni. Io avevo 26 anni. E mi sentivo già sciupato da quella vita in salita. Con mio padre facevo finta di essere io il vecchio, il saggio, il fratello più grande. Lo ammansivo e poi lo giudicavo, così anche quella mattina. Usai parole dure, parole di abitudine. Non ricordo neanche cosa rispose. Non ricordo nulla di quella mattina. Ricordo soltanto mia figlia che gli stava appesa in braccio e poi la faccia di mio padre che poco a poco si colorava di grigio. Secondo ricordo un colore rosso, un calzino rosso. Un calzino rosso nella luce piatta di un obitorio. Io non ero mai stato in obitorio. Me lo immaginavo come in certi film, con gli scaffali di metallo, le luci che ti accecano, i morti rigidi, inoffensivi, impilati dentro un frigorifero, magari con un cartellino appeso all'alluce. E poi su un tavolo pinze, seghe, lami, imbuti, tutto apparecchiato, tutto in ordine, come per un picnic. Invece c'era soltanto una lettiga di ferro su cui avevano sdraiato mio padre. Istintivamente pensai che sarebbe stato scomodo senza nemmeno un cuscino sotto la testa. Un lenzuolo era troppo corto, gli aveva lasciato scoperto un piede, guardando quel piede, mi resi conto che soltanto mio padre poteva portare calze rosse. Pensai che era morto, che eri proprio morto, se quel pudore segreto era stato violato. Un calzino rosso in fondo a un tavolo di marmo. Per anni mi è rimasto conficcato nello stomaco come un chiodo. Mi chiesero se volevo vedergli il volto, risposi di no. Che me ne facevo dalla faccia mai ricucita di un morto, se potevo portarmi via l'immagine di quel calzino rosso, sfacciato, irriverente, come quella di un cardinale. Nel tempo, quando il ricordo si è ricomposto, i particolari sfumati, anche i pensieri di quella notte hanno cominciato a sbiadire, mi è rimasto soltanto quel calzino rosso, l'unica macchia di colore. È per questo che ho deciso di scriverti, per me, non per te. Per recuperare alcuni dettagli, per superarli, e se non te li racconto io si perderanno per sempre. Sarebbe un peccato, no? Anche una benedizione insieme. Scriverti anche questo. La presunzione di chiudere alcuni pensieri, di saldare alcuni ragionamenti, nella speranza che tu li possa raccogliere da qualche parte. Sono passati tanti anni, 30 anni. Pure se mi volto indietro sembra oggi tempo presente. Dicono che sia colpa del dolore, ma il dolore non c'entra. È l'umiliazione piuttosto, per lo strappo subito, il gesto interrotto, la voce spezzata, il nostro dialogo chiuso, muto per sempre, senza nemmeno un cenno, la premonizione di un rischio, niente. Da qualche parte conservo ancora l'ultimo biglietto che mi ha lasciato mio padre, era un elenco di cose da fare, contabilità arretrata, telefonate in sospeso, le solite cose insomma, no? E in fondo quel biglietto c'era scritto ciao, e basta. Quando lo rilessi, dopo, mi sembrò che in quella scrittura, nelle vocali arrotondate, nel tono pacato delle sue raccomandazioni, nella mancanza di un presagio qualsiasi, ci fosse tutta la violenza di quello che sarebbe accaduto dopo, quella sera. La violenza dello strappo, inatteso, per me, per lui, per tutti noi. E infine anche lo stupore. Uno stupore idiota, lo so, che altri abbiano voluto tutto questo. Ecco, questo continua a sorprendermi. Avevo 26 anni e mi sentivo immortale, come te, come tutti. Mio padre è stato ucciso al precipizio di una notte d'inverno di 30 anni fa. L'assassino ha attraversato la strada, si è avvicinato all'auto, ha steso il braccio e ha sparato. 5 colpi, tutti qui. E bastava soltanto uno. Ma il ragazzo era un tipo scrupoloso. E poi è successa una cosa strana. Eh sì, perché succedono sempre cose strane quando ammazzano qualcuno, perché ammazzare non basta mai. Devi distillare il sale sulle frette dei morti, far dimenticare in fretta, come se il ricordo della loro vita fosse soltanto un pensiero storto, anzi no, di più. Come se gli uccisi non fossero mai venuti al mondo e non ci fosse una sola anima disposta a piangerli. E allora queste cose non le sapevo. Non te ne insegna nessuno. Ai figli un padre racconta della vita, no? Gli parla delle bellezze della vita. Non gli spiega come si traveste la morte. E per capirlo mi toccò farmi subito vecchio, al principio di quella notte. Cominciando a frugare in mezzo agli scarti di verità, alle parole che nascondevano dentro altre, alle facce furbe e pietose di quelli che mi stavano attorno, mentre l'obitorio ancora lavoravano di ago e filo per ricucire il morto. Un morto senza pretese. Fatto fuori con 5 colpi calibro 7,65. Il bossolo della 7,65 non è più grande di 2,5 cm. Una pistoletta. Una di quelle che si tengono nel borsello, per sistemare questioni di corna, debiti di gioco, cose così, no? Perché quell'arma? Si chiese al giornale della città la mattina dopo. Un bel editoriale a lutto, ma dentro quel lutto c'era già il fiato acido del sospetto. L'hanno ammazzato con una pistola da peccerente, come a carnevale. Ma siamo sicuri che c'è la mafia? Siamo sicuri che c'è la mafia in questa città? Siamo sicuri... Questo scrivevano. Questo mi toccò leggere appena si fece giorno. E mi fu chiaro che sarebbe stata la musica di tutte le altre mattine a venire. Il ritocco di dubbi, l'infame prudenza di chi non vuole credere che Giuseppe Fava l'abbiano ucciso per cose serie, per le sue parole disobbedienti, per quel giornale fatto di carusi e allegria che raccontava le gesta dei briganti, come fanno i cantastorie. Solo... I nostri briganti sul nostro giornale si portavano dietro anche nomi e cognomi. E come si faceva in una città che era cresciuta a pane e silenzio a tollerare che qualcuno si riempisse la bocca con quei nomi e cognomi? Non si può, non si poteva. E così noi siamo invecchiati e lui no. Anche quando te ne sei andato, sei morto senza sapere. 5 proiettili alla nuca. Attraverso il finestrino di un'auto. Ti hanno lasciato il tempo di spegnere il motore, ma non quello di voltarti e capire. Non ti hanno concesso di avere paura. La paura invecchia. Invece tu sei morto giovane. Per me e per noi è stata l'unica consolazione. L'avevano appena ammazzato, già l'ingombrava il pensiero della sua morte. Avresti dovuto vedere i tuoi colleghi il giorno del tuo funerale. Ricordo la faccia pallida di un vecchio giornalista, pallida di imbarazzo però, non di dolore, quando venne a stringermi la mano. Mi disse che in quella stretta c'erano anche gli altri, gli assenti, che per improrogabili impegni di lavoro stavano altrove e non potevano essere presenti, ma come se ci fossero, condoglianze, condoglianze. Lo lasciai dire, lo lasciai fare. Allora ero ancora un ragazzo educato. I nomi e cognomi. Sono cose lontane ormai. E poi la memoria fatica. Ricordi prima o poi traboccano, si spandono altrove, se ne vanno via. 30 anni sono passati. 30 anni. 30 anni non sono niente. Sono una porta che sbatte, un'alba, un tramonto. Sono anche la misura di una vita che trascorse. E adesso che ho quasi l'età che aveva mio padre quando morì, quando penso alle parole di quei giorni mi sembra di parlare di un film, di un altro. I nomi e i cognomi, me li ricordo tutti. Il cavaliere del lavoro, il direttore, l'editore, il giornalista, il giudice, l'avvocato, tutti. Cominciarono proprio in quel palazzo cosiddetto di giustizia. Le gulei con la loro brava cartellina sotto braccio, giudici con la barbetta, l'aria sazia e il loro esercito di cortigiani attorno. Ci fu uno che mi venne vicino con l'alito falso dell'amico, mi disse, sai, corre voce che l'abbiano trovato con gli assegni in tasca. Ma chi? Tuo padre. Assegni di cavalieri. Lui li ricattava e loro l'hanno fatto ammazzare. Sono stati loro. Ma chi lo dice? Lo dicono. Lo dice. Il meccanismo era semplice, è il luogo casuale. Per esempio la sera i tavoli da poker, dove giudici, magistrati, avvocati, cronisti si trovavano tutte le sere, ma non tanto per giocare a carte, ma per contendersi sentenze, libertà provvisorie, titoli d'apertura in cronaca, tutto. Allora uno, smazzando le carte, diceva agli altri, beh, indovinate un po' perché l'ha fatto fuori. Per i debiti che aveva, no? Lo sono tutti. No! Per una donna. Sì. Pare fosse una minorenne. Il padre è venuto a saperlo. È stato il padre. Una minorenne. Sì. Ma sa futtia. E tu futtia. Bevia, giocava, ricattava. Questo era il loro modo di compiangere. Chi parlava sapeva di mentire o di riferire menzogne e sapevano tutti, anche gli altri, ma stavano tutti al gioco per cancellarlo per sempre dalla mappa e il loro senso di colpa. In una città in cui tutti erano in vendita, tutto aveva un prezzo. E questa ombra di sospetto sui loro amici importanti dava fastidio. Se tutto ciò l'avessero messo in pratica i suoi assassini, avrei compreso, sarebbe stata la loro legittima battaglia per sopravvivere, mentire per salvarsi, invece no, erano gli altri, quelli spigoli di città che la sua vita, soprattutto la sua morte, avevano messo a nudo. Ma quale maglia? Quali comitati d'affare? L'hanno ammazzato per i soldi, per i debiti che aveva, per una donna! Ma che ne sappiamo noi? La sua morte era diventata subito una fastidiosa ulcera. Ci fu uno, faceva il ministro, chiamò a raccolta tutti i giornalisti che morto ancora non l'avevano seppellito. In questa città la mafia non esiste, ed è meglio non parlarne, altrimenti i miei amici, i cavalieri del lavoro, chiuderanno i loro cantieri e i piccioli, i soldi, se li porteranno altrove, da un'altra parte. Uno dei giornalisti presenti alzò la mano e molto gentilmente chiese: «Mi scusi, signor ministro, ma cosa ci sa dire dell'omicidio di Giuseppe Fava?» Signor ministro si girò, se ne andò via, non rispose. A lui del morto, con rispetto parlando, non gliene fregava un cazzo. Il sindaco, che amava i bei modi, pensò che fosse dignitoso dare l'estremo saluto nel cortile del palazzo comunale, in mezzo a una piccola folla, a beneficio dei fotografi e della storia. Parlò a braccio, davanti alla bara. Ma fu un saluto impacciato, imbarazzato. Perché il sindaco riuscì a parlare di tutto, fuorché di mio padre e di mafia. Non hai mai pensato alla morte. Non appartenevi ai tuoi pensieri. Non ne parlavamo mai. Era un nostro vecchio segreto, una specie di comune pudore che ci portava insieme a sentirci sempre come spettatori. Quando accompagnavi tuo padre al cimitero a portare i fiori, non so quale crisavolo, ci lasciavi in macchina ad aspettare. Ci dicevi semplicemente che il cimitero non è un luogo per bambini. Voi dovete aspettare qua. Fermi, obbedienti, mi raccomando, non muovetevi. E noi lì fermi, aspettare che voi tornaste. Soltanto una volta, solo una volta ci incontrammo con la morte, quando morì l'altro nonno, il padre e la mamma, aveva 90 anni. Lo portammo al paese, poi lo accompagnammo a piedi per un tratto tra il municipio e il cimitero. Era luglio, faceva caldo, dalla costa arrivava un vento umido. C'erano pochi parenti, tutti silenziosi, tutti con la mente altrove, soltanto tu eri diverso. Eri diverso il tuo modo di camminare, il tuo modo di sentire il vento. Stavamo in coda per ultimi, chiacchieravamo, ma soprattutto tu parlavi. Parlavi dei tuoi amici, del tuo paese, del giornale, della vita densa che ci attendeva. Mentre parlavi mi accorsi di una cosa, che avevi paura della morte, di doverne parlare, di doverne discutere, di dover consolare gli altri. Infatti una volta giunti al cimitero mi dicesti, vieni, andiamo a casa, dai, ma come, andiamo. Così mentre gli altri si raccoglievano attorno alla bara, io e te tornavamo a casa a piedi, quasi di corsa. Avevi l'ansia ferita di un bambino. Volevi allontanarti da quei luoghi più presto. Ma soprattutto, volevi allontanare me da quei luoghi più presto. Sei morto 6 mesi dopo. 6 mesi esatti. Forse quel pomeriggio fu l'unico presagio. Te lo ricordi il nonno? E come potresti? Eri troppo piccola. Quella mattina ti prese in braccio e io che parlavo, pedante come un vecchio. E lui invece ti guardava, si alleggeriva la testa, si prendeva l'odore, il tuo odore. Sì, odore di neonata, di piccieredda, odore di carne tenera, di talco, di sonno. Che ne sapeva? Che mancavano 5 giorni alla notte. Che ne sapevamo noi, poveri minchioni. Convinti che la vita andava misurata con le stagioni. Quando hai 20 anni ti senti immortale. Spalanchi le finestre per prenderti il vento in faccia, invece dalle finestre aperte ti arriva addosso tutta la vita, come uno schiaffo. Una mano che ti afferra una spalla e ti scuote, ti sveglia. Ma quale immortale, quale vento in faccia? Lo so, non c'è un ordine in questa mia memoria. Ecco, lo spessore del tempo, a forza di ricordare, si è come assottigliato. Allora, al principio ci fu un morto, ecco. E poi i vivi, che si affollarono intorno, fingendo opere di bene e di verità. Il primo fu il signor procuratore della Repubblica. Bene, possiamo cominciare? Bene, allora, il microfono funziona, sì? Bene. Allora, indagheremo a 360 gradi... Prego? Sì, certo, cercheremo dappertutto, ovvio, sì. Anche nella vita privata, certo, cercheremo, soprattutto nella vita privata. E cercò subito, signor procuratore della Repubblica, dentro le nostre vite, con miserabile puntiglio, ordinando che il mio telefono venisse messo sotto controllo, il mio telefono. Quando lo seppi, anni dopo, pensai a quelle settimane in cui ci eravamo imposti il lutto severo, controllato per non concedere nulla, per non regalare nulla. Il dolore, che si raccoglieva in fondo alle parole non pronunciate, e poi sgorgava il telefono, si spandeva nei singhiozzi senza pudore che io scambiavo con i miei amici. Il nostro dialogo privato, che pensavo di tenere a riparo dagli altri, invece no, gli altri erano lì accanto a noi, in ascolto dall'altra parte del telefono, ad annotare per ordine del signor procuratore della Repubblica ogni singola parola. Chissà cosa avrebbe dovuto raccogliere, no, in quelle telefonate, nella fedele trascrizione dei nostri lamenti. Il suo secondo ordine, anzi no, il suo secondo contributo giudiziario per dare la caccia agli assassini, fu quello di cercare nel mio conto corrente bancario, nel mio e in quello dei miei compagni. Poveri denari. Ma cosa volevano trovare? Passati in rassegna meticolosamente, cifra su cifra, come si usa coi bugiardi, coi truffatori. Ma quello era soltanto un dettaglio, perché l'importante era perdere del tempo e rintracciare notizie inutili, lasciando intanto che sul morto crescesse un vapore di cose non dette, di pensieri sfacciati, no? Ma quale mafia, quali comitati d'affari? Ma l'hanno ammazzato per i soldi, no? Per i debiti che aveva? Per una donna l'hanno ammazzato, ma che ne sappiamo noi? Un giorno mi convocarono a palazzo. Mi consegnarono degli scatoloni, mi dissero, qua dentro ci sono tutte le carte di inchieste di tuo padre, portatele a casa, dai. Sembrava che dessero fastidio lì, che ingombrassero. E ho preso gli scatoloni, me li caricai in macchina, da solo. Una volta giunto a casa, rovesciai le scatole sul pavimento. Indagini chiuse, scatole aperte. All'interno di una di queste scatole c'erano tutti gli assegni di mio padre, che i finanzieri, per ordine del signor procuratore della Repubblica, erano andati a rintracciare in cima al mondo. Cifre ridicole, lista di povere spese, l'affitto, il meccanico, un viaggio in treno, una pizza con gli amici. E la firma di mio padre era un tratto di inchiostro sbiadito in un angolo di ogni assegno. Centinaia di minuscoli pezzi di carta sparsi sul pavimento. La vita di mio padre era stata ridotta a coriandoli. Poi un giorno ho saputo. Trovarono un appunto a casa del capo mafia della città. In una nota c'era il nome del signor procuratore della Repubblica e accanto una cifra generosa. Un pentito raccontò che andavano a trovarlo periodicamente. Lui faceva trovare un elenco degli ordini di cattura preparati dagli altri magistrati. Si mettevano attorno a un tavolo e cominciavano a discutere insieme. Questo togliamo. Quest'altro. Lasciamolo stare. Quest'altro. Vediamo che si può fare. Lo pagavano e lui disponeva. Il telefono sotto controllo, la caccia, gli assegni, il dubbio vile su quegli spari, su quella notte, su quella città. Ho saputo tutto alla fine. Anche le cause scientifiche della morte. La traiettoria delle pallottole. Dove erano entrate, cosa avevano macinato durante la loro corsa e dove erano scappate via. 5 fuori d'entrata nella regione occipitale sinistra, 5 fuori d'uscita nella regione parietale destra. Ho letto il referto dell'autopsia. Ho letto tutto. Freddamente. A raccontarla così sembra un film, vero? Oppure un gioco. Ma non è stato un film. Tantomeno un gioco. Non per me almeno. Non per la mia paura. Era un pensiero nudo. Non volevo che mi capitasse quello che era capitato a te. Cominciai ad aver paura della loro violenza, di essere ammazzato anch'io. Mi esplose dentro quella notte di gennaio, quella prima notte di solitudine. Forse per un pensiero non ancora rimosso che stava in fondo alla mia coscienza. Che sapevo che quella sera non dovevi essere da solo. Ci sarei dovuto essere anch'io con te in auto. Un caso, un ritardo, e tu fosti solo. La tua solitudine la sera in cui ti uccisero, ci ho pensato tante volte, mi sembra rimasta come una ferita aperta, come una violenza dentro la violenza. Eppure non era quello il pensiero che mi trafiggeva, sarebbe stato un pensiero lucido, un ragionare articolato, era paura e basta. Una tenaglia che mi chiudeva lo stomaco, come stutto al mare del mondo, si fosse concentrato su di me, anzi no, dentro di me, e fosse pronto a esplodermi nelle vene. Paura, senza provare vergogna. Nemmeno per mio padre che era ancora il Vittorio. Accorsi solo allora che dolore e terrore sono due sentimenti capaci di convivere uno accanto all'altro. Anzi no, uno dentro l'altro. Il dolore che ti invade la vita, ti allaga il cuore. E poi dentro, in una nicchia, il senso perfetto della paura. In quelle ore ho peccato di viltà. Davanti a quel corpo immobile, davanti a quel calzino rosso, pensavo a me stesso, non a chi lo avesse ucciso, ma al fatto che non volevo morire anch'io. Furono pensieri trasparenti. Solo questo posso portare le mie discolpe. Non ne parlai con nessuno, ma credo che in quei giorni la mia anima fosse di vetro. Ho trascorso 10 giorni chiuso in casa, senza vedere nessuno, senza cercare nessuno. Finché un giorno vennero a prendermi, Antonio e gli altri, mi dissero che al giornale c'era una riunione che doveva essere presente anch'io, così andai. Ci sedemmo attorno a un tavolo, cominciai a parlare io per primo, i miei amici ascoltavano in silenzio, senza obiezioni. Ascoltavano e basta. Io dissi che temevo per me e per loro, che quell'esperienza doveva considerarsi conclusa, che il giornale era morto assieme al suo direttore, basta. Loro mi risposero, va bene, di andare a casa, che avrei saltato un turno e che al giornale ci avrebbero pensato loro. Vai a casa, mi disse, ma senza ragionarci troppo, devi come smaltire una grossa sbornia. Noi siamo qua, ti aspettiamo. Così andai a casa. Incredibilmente, da quel giorno, un po' alla volta, la paura mi abbandonò, così come mi aveva invaso il cuore. Alla fine, anche la morte ti educa. Anche la morte del padre. Persino l'assassinio di tuo padre possiede un suo terribile messaggio di saggezza. A me, per esempio, ha insegnato a deparare i miei sentimenti sui tempi lunghi, rabbia, paura, disprezzo, bisogno di giustizia, ricerca della verità, l'amore anche. Vanno sottratti alla fretta del tempo, coltivati con misura. Forse fu questo il motivo della mia delusione quando anni dopo, in un corridoio della questura, mi vidi passare accanto, a pochi metri, l'assassino di mio padre. Fuori dalla questura si era radunata una piccola folla in attesa di vedere il bandito. Aspettava quieta, come si fa per l'arrivo di una vecchia celebrità. Non sembravano arrabbiati, erano curiosi e basta, curiosi di vedere quell'uomo che era riuscito a scappare e allo stesso tempo a comandare per tutti quegli anni senza dover mai lasciare la città, mai. Mi portarono su in cima, nella stanza del questore, mi affacciai alla finestra, vidi le auto della polizia arrivare e quando lo fecero scendere lo vidi per la prima volta, era lì. Lui si guardava attorno, sembrava sorridere. Sembrava persino contento. Qualche minuto più tardi, quando me lo vidi passare accanto, non vidi nient'altro che un vecchio uomo. Un uomo rapidamente invecchiato, con maglione raffazzonato, verde, capelli arruffati, sporchi, mormorava parole sommesse di rabbia, mentre i poliziotti lo portavano via. Io cercai di non incrociare il suo sguardo perché non avevo nulla da trasmettergli, né odio né pena. Mi lasciò il cuore di ghiaccio e me ne andai a casa. Sai il tempo, tutto il tempo, tra questa parola e il tuo tempo. Sai l'aria, tutta l'aria, tra questa parola e la tua aria. Il mare, forse. Sai il dolore, l'amore, la terra, la morte. Sai tra questa parola e i tuoi finissimi fili. Sono versi di un poeta argentino. Io in principio non avevo capito. Continuavo a misurare tutto come prima, come sempre, con accanimento. Per esempio, il tempo trascorso insieme. Fu la prima cosa che calcolai che tradussi subito in giorni, ore e minuti. Me li ripetevo dentro con ossessione ad alta voce, ma mi sembrava comunque di aver vissuto troppo poco assieme. L'umiliazione dello strappo, quella non si placava. Così il mio tempo, preferivo trovarlo negli oggetti, i suoi oggetti, quei pochi che fece in tempo a recuperare. Qualcuno li raccolse, me li fece trovare una mattina sulla scrivania della redazione, dentro un sacchetto di plastica, su cui qualcuno per zelo ci aveva attaccato un cartellino con scritto nome e cognome di mio padre. Erano oggetti di poco conto che si era trascinato per anni, taccuini, rubriche telefoniche, accendini, nulla che fosse suo veramente, che gli appartenesse davvero. Mio padre non si attaccava alle cose, le usava e basta. Anche questo raccontava la sua grande libertà. Per me conservai soltanto un portaocchiali con gli occhiali dentro. E una sera, mentre ero a casa, aprendolo, mi accorsi di una cosa straordinaria e terribile insieme. Dentro quell'astuccio c'era ancora il suo odore. L'odore frantumato del suo sudore, la sua pelle, lieve, ma adesso c'era sai che era un pezzo della vita che gli era sopravvissuto. Cellule che si riproducevano, fibre che non erano morte. La pensai con paura, però non con sollievo, sopraffatto dell'idea di perdere anche quella traccia esile, la prova chimica che mio padre era esistito, era vissuto veramente. Richiusi il portaocchiali e lo seppellì in fondo del cassetto, non l'ho più ripreso in mano. Qualche giorno dopo il funerale di mio padre venne un maresciallo dei carabinieri per svolgere indagini, uno soltanto. Quando mi chiese di mostrargli casa sua, il suo studio, le sue carte, si arrestò sulla soglia della stanza. Si fermò e si guardò attorno, con lo sguardo appannato dalla paura, col respiro che gli si rompeva in gola. Sulla scrivania c'erano diverse carte, cartelline, c'era anche una macchina da scrivere, con foglio infilato dentro scritto per metà. Poteva esserci di tutto in quelle carte. Un messaggio, una traccia, i nomi dei suoi assassini, la ragione della sua morte, le prove, il movente, tutto. Lui non voleva scoprire nulla. Era stato mandato lì semplicemente per stilare un verbale. Solo questo gli avevano chiesto di fare. Se ne stava lì immobile come una statua, un cemento armato. A un certo punto mi guardò, ero la sua unica via di fuga, e mi disse: mi scusi signor Fava, se trovo qualche cosa, un indizio di qualche cosa, ci mandi a chiamare, faccia così. Sì, anzi no, no, no, no, scriva tutto su un foglio, in fondo a quel foglio ci mette la sua firma, spedisca tutti i magistrati che poi ci pensano loro, eh. Facciamo così, sì, bene, bene, bene. A quel punto si avvicinò al tavolo, ha preso una cartellina e ne estrasse dei fogli. E cominciò a leggere. Allora, la rivoluzione, come? La mano cominciò a tremargli impercettibilmente. Gli disse subito: no, guardi, no, è un testo per il teatro, mio padre scriveva per il teatro anche, fra tanti lavori che faceva, e quello è il titolo di un lavoro che stava seguendo, si chiama proprio così, La Rivoluzione. Ah, beh, ah, bene, beh, allora, ha capito, no, spedisca tutti i magistrati che poi ci pensano loro, eh, tante belle cose, mi stia bene, arrivederci. E scappò via. Senza nemmeno leggere quello che c'era scritto in quel foglio, infilzato ancora nella macchina da scrivere. Poteva essere tutta lì la verità sulla sua morte, no? Lo lessi io dopo. Erano poche righe, un pensiero, un'idea a cui stava lavorando da tempo. Parlavano di un sogno. Ogni tanto immagino se tu dovessi tornare improvvisamente. Io credo che resteremo in silenzio lungo e che in quel silenzio ritroveremo tutto. Immaginato che lo troveremo nei gesti, il nostro tempo trascorso, il nostro modo di guardarci, di guardare altrove, le parole, qualsiasi parola, non aggiungerebbero, anzi sottrarrebbero. In quel silenzio ci rivedremo tutti questi anni, come mi accade quando ti sogno e ti incontro, senza sorprese, senza gioia. Incontro perché so che così deve essere. Poi restiamo a lungo vicini, inerti, come a riprendere forza. Banca avviò immediatamente le pratiche per il pignoramento di casa nostra, per il suo vecchio debito non ancora saldato, una manciata di milioni, eh. Ma il direttore fu irremovibile. Beh, chi li avrebbe garantiti per quel fido, ora che nostro padre era morto? E poi arrivò la guardia di finanza, si affacciarono una mattina in redazione con mandato di perquisizione, sì. E il giudice voleva vedere chiaro nei conti del nostro giornale, non si sa mai, no? Beh, e così vennero tutte le mattine, le 8 in punto, per 20 giorni di seguito. Si sedevano, si facevano portare le carte, si accomodavano. Cominciavano a frugare tutti i numeri, a controllare tutti i pagamenti. E ogni tanto chiamavano qualcuno di noi e ci chiedevano: può venire qua per favore? Sì, venga qua. Non è chiara la firma di questo assegno, sa? Sì, di chi è? Ah, sì, sì, sì. Ah, poi c'era anche un numero di fattura, non molto chiaro, era un po' sbiadito, sì. Ah, poi la ritenuta da conto, lei deve sapere che partita IVA. E avrei voluto chiedere, ma cosa c'entra la partita IVA? L'ha ritenuta d'acconto con gli assassini di mio padre. E invece no. Rispondevamo pazienti, sperando che tutto questo potesse restituirci la verità sulla sua morte. Poi loro, i finanzieri, ogni tanto s'alzavano, andavano al bar di fronte a bersi un caffè con le mani in tasca e con l'aria appagata di chi sta facendo bene il proprio lavoro, fino in fondo. E poi vennero le cerimonie. A me non sono mai piaciute le cerimonie. I vivi che lamentano i morti, gli elenchi dei nomi, gli sguardi che si fanno di pena, ogni tanto buttano l'occhio sull'orologio. Quanto manca? 5 minuti, poi è finita, andiamo via. Una volta ho conosciuto la moglie di un poliziotto, uno di quelli fatti a pezzi con le stragi del 92, e mi disse, sai, io ho come l'impressione che siamo un po' di troppo ormai. Ci hanno confinato una specie di riserva, e ogni tanto ci vengono a trovare, ci toccano con delicatezza, ci parlano anche, bontà loro. E poi ci dicono, vede quello? Quello è il figlio di, se lo ricorda? E invece quello è il padre di quello... Ci tengono un po' di compagnia e poi quando sono stanchi si alzano, se ne vanno a casa e tutto finisce lì. Sai, una cosa, io credo che mi diamo un po' fastidio anche. Sì, perché prima si stava meglio, tutto sommato, no? Senza tutte queste vedove, senza tutti questi orfani, senza tutta questa rabbia. Si viveva in superficie, forse, ma meglio. E così ho smesso di partecipare ai cortei, alle fiaccolate, alle simulazioni del dolore. Ho smesso per pigrizia, per stanchezza dentro, sforzarsi di credere che alla fine tutto serve, tutto sedimenta, intanto contare gli anni che precipitano, i cortei che si moltiplicano e contare alla fine gli anni che sono troppi ormai. E anche te avresti partecipato ai cortei. Non ti sarebbe piaciuto camminare accanto ai gonfaloni dei comuni, ai sindaci con il loro bel tricolore, il dovere di esserci, la necessità di mostrarsi. In quelle occasioni si celebra soltanto la morte e tu invece amavi celebrare soltanto la vita. E così, per qualche anno ho detto basta, mi sono tirato fuori. Si andava qualche ora prima con la famiglia, si lasciava dei fiori a terra, si restava un poco a guardare quei garofani in mezzo all'asfalto scarpolato e poi si andava via. Se vi capita di andare a Catania, andate via dello stadio, che ora si chiama via Giuseppe Fava. C'è una lapide in marmo, ma prima non era in marmo, era di legno. Cosa dico? È compensato. Quel cipo l'avevano inventato gli studenti del liceo usando dei trasferibili su un foglio di balsa. Poi naturalmente il vento, la pioggia hanno lavato via le parole. Allora ci siamo autotassati e gli abbiamo regalato una bella lapide come si deve. Lettere in bronzo su marmo bianco. Le parole invece sono lievi. C'è scritto che sei un giornalista e che la mafia ti ha ucciso. Nient'altro. Certe sere tornavo a casa con le spalle pesanti, con timore che tutto ciò che facevamo, le copie dei giornali impilate una sull'altra in sua memoria, le quotidiane battaglie, le risse contro i suoi vecchi amici lividi di paura, che tutto questo fosse assolutamente superfluo e che la verità sulla sua morte, per noi così elementare, sarebbe rimasta sepolta, condannata all'oblio, sottratta per sempre anche a noi. Allora, in quei momenti, speravo di incontrarli, sotto casa. Io uscivo dall'auto e loro lì ad aspettarmi. Allora, in quella frazione di vita che mi rimaneva, avrei avuto almeno la certezza che non ci eravamo inventati nulla. Che la violenza che l'aveva portato via era esistita. Ed esisteva ancora ed era reale. Proprio come noi per anni avevamo continuato a raccontare. Una mattina i giudici mi convocarono a palazzo. Era la prima volta che mi interrogavano. Mio padre era morto da un paio d'anni, in cui la loro inchiesta era già chiusa, sepolta, archiviata da tempo. Io non sapevo nemmeno che faccia avessero, non li avevo mai cercati. Loro mi avevano scrupolosamente evitato, ma una cosa sapevo, che da loro non potevo aspettarmi nulla, anzi che dovevo difendermi. Soprattutto dovevo difendere la memoria di mio padre. Anche per questo avevo preferito inviare il memoriale a Palermo. A capo dell'ufficio istruzione di Palermo c'era un vecchio magistrato che più tardi avrà imparato a conoscere e ad amare meglio, ma che già allora mi comunicava un'idea alta e decorosa della giustizia, Antonino Caponnetto. La lettera che avevo spedito a Palermo era un lungo riepilogo di episodi, parole, immagini che avevo raccolto in quei mesi, dopo aver aspettato che i giudici lo facessero al posto mio. Avevo setacciato la mia memoria e quella dei miei compagni. Avevo allineato tutti i miei ricordi riportati su un foglio, in fondo a quel foglio ci avevo messo la mia firma. Scrivevo del cavaliere, di ciò che era accaduto nelle ultime settimane di vita di mio padre, soprattutto della sua telefonata, l'appuntamento, l'incontro, per sapere che intenzioni avesse il nostro giornale. Prego, prego, direttore, stavo aspettando, prego, si accomodi, un caffè? Niente? Va bene così? Prego, si segga, si accomodi. Niente, l'ho convocata per dirle che è un bel giornale, sa? Bravi ragazzi, intelligenti, coraggiosi, però vedete, insomma, è evidente che avete dei problemi economici, quindi se permette io vi vorrei tanto aiutare. Andrebbero bene 200 milioni? Prego. 200 milioni. Offrì 200 milioni. Una cifra altissima, no? Quante cose ci avremmo potuto fare con quei 200 milioni? Forse pensava che mio padre fosse in vendita. O che la sopravvivenza del giornale l'avrebbe reso più malleabile, più ragionevole. Ma non fu così, naturalmente. Mio padre glielo urlò in faccia cosa poteva farci con quei 200 milioni. Qualche settimana dopo era Natale. E arrivò a casa nostra un pacco del cavaliere. 4 bottiglie di marca di champagne. Champagne. Non avevo mai bevuto champagne. Accompagnate da un gentile biglietto d'auguri che diceva, pressa poco, buon Natale e un prospero anno nuovo. Firmato il cavaliere. Mio padre accolse quel regalo con un sorriso divertito. Le 2 bottiglie le stappammo subito, la notte di Capodanno, e brindammo alla vita. Come sempre. L'hanno ucciso 5 sere dopo. Era il 5 gennaio 1984, 30 anni fa. Quando l'hanno ucciso, il pensiero più urgente, il primo pensiero, fu quello di sostituirlo, di trovare un altro adulto, un'altra fonte di certezza. Così l'ho cercato nei pochi uomini che conoscevo, li inseguivo, li ascoltavo e poi li mettevo da parte. E alla fine di adulto sono rimasto soltanto io. Adulto per necessità, per improvvisa solitudine, indurito dentro e fuori, senza nessuno da cui imparare. Sono invecchiato da autodidatta. Immaginando i pensieri che mi avrebbe dato lui, inseguendo con la memoria il suo sguardo, il suo consenso, il suo silenzio. Devo farcela da solo, mi ripetevo continuamente. Devo cavarmela da solo. E così. E lì si consumava il gioco. Avevano deciso di ammazzarmi, proprio come avevano fatto con mio padre. Nella stessa strada, sullo stesso spigolo di marciapiede, così doveva essere. Avevo scelto anche il momento, l'anniversario della morte di mio padre, 9 anni dopo. Ricordo la sensazione ormai consueta, l'attesa di quel pensiero comune. Ricordo mia figlia con un mazzetto di fiori in mano, la sua aria impacciata, qualcuno che parlava, Riccardo forse. A un certo punto mi passava il microfono, dovevo dire qualcosa anch'io. E così parlai, attorno a me c'era silenzio, questo mi bastava. E così non mi accorsi del gesto. E lo raccontarono 3 mesi dopo facendomi leggere di nascosto le dichiarazioni di un pentito. Un gesto secco, rapido, quello di estrarre dalla tasca una pistola. Un gesto fermato a metà perché l'uomo non si era accorto e 2 poliziotti che erano stati mandati lì per dare un'occhiata. Ci riprovarono in 2 stavolta. Mi seguirono in auto, mi attesero un semaforo E quando frenai mi vidi puntare contro le rivoltelle. Fu in quell'istante che una terza auto si mise proprio fra di noi. Scelsero ancora una volta di rinunciare, ma non ne facevano un problema. Sapevano che non sarei sfuggito a quel destino. Una decina di giorni dopo, uno dei due sicari si consegnò ai magistrati, era stanco, aveva paura, parlò, raccontò tutto ciò che aveva fatto, i delitti che aveva commesso, le persone che aveva ucciso, più di 100. L'unico che gli era sfuggito ero io. Non seppe spiegare perché dovevo morire, non lo sapeva, gli avevano chiesto di farmi fuori e basta. E così da quel giorno improvviso la mia vita è cambiata. L'hanno chiuso in un'auto d'acciaio, hanno piazzato dei soldati alle mie finestre, ho ascoltato parole sconosciute, in un linguaggio sconosciuto, ho udito rumori nuovi, ho sperimentato una dimensione del movimento che non era più affidata al mio corpo, ma ai riflessi degli altri. E intanto la città sfumava, si perdeva. Si smarriva dietro i vetri spessi della mia nuova auto blindata. Io me ne stavo chiuso lì dentro, come se fossi in un acquario, a guardare il mondo esterno, dove tutto si muoveva lentamente. Vivevo in un mondo senza suoni e pensavo, ma se fossi stato tu qui dentro, non ti avrebbero ucciso. Non saresti morto. Almeno tu sei morto giovane. E alla fine quel pensiero prevalse. Morire giovani, senza sabbia sul cuore, senza ruggine nei pensieri. E così, in autunno, ho scritto una lettera per spiegare che rinunciavo al conforto dell'acciaio intorno a me, ai gesti di altri uomini che seguivano i miei. Io in quell'acquario stavo cominciando a invecchiare. I pensieri si erano fatti torbidi. E anche i pugni, alla fine, i miei pugni, si erano arresi. Forse hanno ragione loro, però, sai? Quelli che dimenticano. In fondo la vita è anche questa. Una mano che lava le ferite, che conforta il sangue. Che me ne faccio 30 anni dopo di sapere chi e perché. A cosa serve dissiparmi questa resurrezione di cose morte? Adesso che anch'io ho quasi l'età che aveva mio padre quando morì, adesso che anch'io cammino sull'orlo della vecchiaia, che nutrimento mi può dare la verità? Sono morti tutti. E quelli ancora vivi sono ormai vecchi, decrepiti, hanno la pelle vizzita, hanno smarrito memoria delle loro vanità, delle cose che fecero, delle bugie che fabbricarono. Me ne faccio questo tormento come se oggi fosse ancora ieri, l'altro ieri, come se fossimo sempre al principio di quella notte, accanto a quel calzino rosso. Io tutti i giorni mi chiedo, ma posso liberarmi da tutto questo? Posso liberarmi da tutto questo tempo trascorso? Posso? La verità è che non posso. Le cose che sappiamo ci inseguono come mosche, si attaccano alla nostra vita, resteranno poggiate per sempre come una maledizione. Ho saputo tutto alla fine. Persino che hanno sorriso quella notte. L'ho letto nei verbali. Si sono trovati al bar. Uno ha portato le pistole, l'altro ha procurato le pallottole. Poi uno di questi ha detto, beh, che dobbiamo fare questa sera? Ma sì, dai, quel vecchio, il giornalista, come si chiama, dai, due piccioni con una fava, sì, quello. Sono usciti, sono andati a cercarlo, l'hanno trovato, l'hanno ammazzato. Poi sono tornati al bar. Uno ha sciacquato i bicchieri, l'altro ha stappato una bottiglia. E quello che aveva sparato ha detto, gli abbiamo regalato 5 polpette. Così ha detto, 5 polpette. E poi hanno brindato. Hanno bevuto, hanno sorriso, hanno ucciso. E poi ciascuno per la propria strada, dalle proprie donne, nelle loro case. Io quella sera non c'ero, stavo altrove, con i miei amici. Perché c'è sempre un altrove, un altro luogo che ti trattiene quando la vita ti scarta davanti, ti scappa via. Resta soltanto la molestia di quell'istante, come un chiodo, uno sfregio sul muro che separa per sempre ciò che è stato prima da ciò che sarà dopo. Ecco adesso, che dopo si è riempito di anni, anche adesso che io e mio padre ci rassomigliamo, abbiamo la stessa faccia, c'è qualcosa che si è fermato al principio di quella notte. Un tempo irrimediabile che non se ne va più. Perché il tempo è in me, ma è dentro di me. E oggi, che è una stagione di nuova solitudine, pensi ai troppi giorni smarriti, la via perduta. Eppure un giorno tornerai. Avrai i capelli del mio stesso colore, uno sguardo senza far domande, mi poggerai una mano sulla testa, come facevi quando ero bambina. Non parleremo. In quel silenzio io ti dirò tutta la vita. Sono passati 30 anni. Andiamo all'ospedale, mi dicono. Andiamo a vederlo, vieni. Mi fanno salire in macchina, io vedo le mie mani che si incrociano, che si poggiano sulle ginocchia, sento il mio respiro, registro ogni minimo rumore. All'incrocio ci fermiamo, il semaforo è rosso e l'auto si ferma. Allora in quell'istante, in quel preciso istante, comprendo la morte, la sua morte. Di cui mi hanno già detto, ma che solo ora finalmente posso sentire e capire. In quell'attesa obbediente a un semaforo rosso. Perché il tempo, tutto il tempo, è appena cominciato.